11.03, prosegue la mattinata informativa di Radio Blackout sui 105.250. Come ogni martedì torna in onda Parole Ribelli, la trasmissione del collettivo universitario autonomo. Un buongiorno a tutti e a tutte da Francesca e da Eddie, che saranno qui a tenervi compagnia fino alle 12.45. Vi ricordiamo come sempre anche i contatti per scrivere nel corso della trasmissione: 346-667-3263 è il numero di cellulare, per il telefono fisso potete chiamare lo 011-249-5669. You know you took my di iniziare con gli approfondimenti, come di consueto andiamo a presentare brevemente la puntata di quest'oggi. Inizieremo con un collegamento da Firenze con i compagni del collettivo scientifico auto-organizzato, che da alcuni mesi stanno portando avanti un lavoro di inchiesta, ma non solo, sulla questione dei tirocini nelle facoltà scientifiche. Quindi ci faremo raccontare un po' di quello che stanno facendo. Sì, poi andremo avanti con un collegamento con i gestori della pagina Spot ed un professori Unibo, questo progetto partito dopo un'assemblea a scienze politiche che, diciamo, dà la possibilità a tutti e tutte di monitorare gli abusi di potere da parte dei professori e quindi di anche auspicabilmente prendere delle contromisure al riguardo. E infine inizieremo ad accennare le iniziative romane in vista del vertice sulla disoccupazione giovanile che ci sarà in primavera, per la quale appunto è stata già lanciata una mobilitazione. Ci saranno ovviamente, in continuità anche con il percorso del 19 ottobre, delle tappe di avvicinamento, quindi inizieremo, insomma, a parlarne un po', poi sicuramente nelle prossime settimane ci sarà modo di approfondire. Questo è più o meno quanto, vi lasciamo ancora un po' di musica, nel frattempo prepariamo la prima diretta, buon ascolto. E ne approfittiamo anche per accontentare una richiesta che ci arriva in studio, al quale ci uniamo volentieri. Un saluto a Camilla, che in queste ore è in partenza, con l'augurio di rivederci presto. Anche un saluto a Ita che cucina in credenza e sappiamo che ci ascolta, e a tutti e tutte gli influenzati che non si possono godere questa bella mattinata di sole torinese a causa dei microbi metropolitani. E nel frattempo abbiamo fatto il primo collegamento, abbiamo a questi microfoni Francesco del collettivo auto-organizzato scientifico di Firenze, che innanzitutto salutiamo e ringraziamo per essere qui. Ciao Francesco, ciao, ci senti? Sì, vi sento, ciao. Ciao. Allora, con te vorremmo un po' parlare del lavoro che state facendo sulle facoltà scientifiche fiorentine rispetto alla questione dei tirocini, una questione insomma non nuova che da molti anni si è palesata come vera e propria forma di sfruttamento, questo lavoro obbligatorio che in molte facoltà viene imposto agli studenti, che appunto a tutti gli effetti lavoro non retribuito. Voi, se ho capito bene, vi siete concentrati in particolare sulla facoltà di infermieristica, dove appunto questa questione dei tirocini è particolarmente pressante, quindi niente, ti chiederei un po' di raccontarci come è nato questo lavoro, da quanto tempo sta andando avanti, insomma anche quali risultati avete raggiunto. Sì, noi siamo un collettivo molto giovane perché siamo in attività soltanto da 2 anni, ma già da alcuni tempi abbiamo subito riconosciuto il tirocinio nelle facoltà scientifiche come un argomento importantissimo di cui era necessario trattare. La campagna è partita da 2 settimane solamente, ma dietro c'è un lavoro di mesi di analisi, di riflessioni, di discussioni con gli altri compagni, altre facoltà che anche loro portavano le studenti sui loro tirocini. Penso che è subito naturale concentrarci nelle nostre facoltà scientifiche, perché proprio in queste facoltà, come hai detto bene tu, il tirocino è un elemento importantissimo della formazione, ma è anche una problematica pressante. Perché infermieristica? Perché sono 2100 ore in 3 anni, ti direi, perché uno dei tirocini più pesanti che uno studente possa affrontare, perché una realtà come quella dell'ospedale, con responsabilità importanti, turni pesanti, e non solo, anche perché sono tantissimi trentenni di comunque che hanno già un lavoro, hanno già avuto un'esperienza lavorativa o devono comunque si ha davanti una famiglia, e questo a volte gli complica molto la vita, perché non devono abbandonare il lavoro, o comunque hanno dei ritmi di studio molto lenti, perché devono stare per forza di cosa al tirocinio che non è retribuito, e quindi gli anni di più difficile la vita, diciamo così. Quindi era una necessità naturale per noi concentrarci su questo tipo di tirocinio, anche perché c'era dietro una mobilitazione dei lavoratori di infermieristica, di infermieri di Careggi a Firenze, e ci è sembrato naturale unire le due mobilitazioni per cercare di fare un fronte comune. Certo, tra l'altro so che non solo a Firenze ma anche a Pisa su questo fronte ci sono già delle mobilitazioni avviate, quindi in un certo senso appunto una problematica che emerge da più parti, ma sulla quale anche ci si sta mobilitando da più parti. Sì, è verissimo, infatti abbiamo anche conosciuto dei ragazzi di Pisa e hanno raccontato il loro disagio, ma dire Pisa come dire Massa, infatti il caso di Massa è emblematico perché è una zona sanitaria in forte crisi, con un buco di bilancio mostruoso. Gli studenti di Pisa sono costretti a comprarsi le divise, e qui almeno a Firenze ce le danno gratis. Quindi è una, sì, è una realtà sfaccettata quella di infermieristica, ma come sfaccettata tutta la realtà dei tirocini. Per questo è un lavoro molto complesso, e speriamo di allargare non solo a tutte le fine di Firenze, ma a tutte le facoltà toscane e chissà, magari anche in altre città d'Italia. Certo, tra l'altro insomma, solitamente per chi fa lavoro politico in università, le facoltà scientifiche solitamente sono quelle più insomma difficili da raggiungere, ma proprio anche per i tempi di vita e di studio che vengono imposti agli studenti, appunto il caso dei tirocini è emblematico. Voi come siete riusciti ad approcciarvi, insomma di quali strumenti vi siete dotati, anche qual è stata la risposta degli studenti finora a questa questione qua? Ma è come la sua, la difficoltà è una difficoltà storica. Tra l'altro questa difficoltà si allarga, secondo me, anche agli istituti tecnici e professionali delle scuole superiori, almeno a Firenze è così. Noi siamo riusciti ad approcciarci a questo tema anche grazie dopo la questione degli infermieri, che ci hanno dato un grosso gancio per parlare di questo tema, e però parlando delle problematiche reali che tutti gli studenti si vivono, siamo riusciti a creare una sorta di piattaforma, una sorta di base su cui lavorare. Quindi è stato però ancora vi direi ancora la strada è molto lunga, perché siamo agli inizi, quindi non abbiamo ancora il lavoro è molto politico, perché appunto, come dicevo prima, va rilevata la questione, non vogliamo assolutamente rimanere soltanto nell'ambito degli infermieri, ma stiamo andando a questo forum di lancio, quindi speriamo di allargarci ancora di più, parlando della problematica che tutti si vivono e che quindi accettiamo possa coinvolgere un gran numero di studenti. Certo, senti, leggevo dal vostro blog che di recente proprio la Regione Toscana ha varato un provvedimento che si chiama Giovani Sì, che riguarda proprio questa questione dei tirocini. Voi l'avete un po' analizzato, avete scritto un commento, hai voglia di spendere due parole per spiegarci di cosa si tratta? Sì, Giovani Sì, ci siamo subito cercando di analizzarlo, perché poteva essere un elemento di distrazione e di confusione in questa già grande e confuso marasma legislativo che riguarda i tirocini. Giovani Sì all'inizio è partito soltanto per i tirocini non curricolari, in cui un'azienda e la Regione Toscana dividevano la quota di salario, di stipendio, destinare al tirocinante per retribuirlo. Adesso ancora è una bozza di fatto, perché anche noi durante il procedimento dell'infermiera siamo stati che abbiamo posto delle questioni ai dirigenti regionali che si occupavano di questo progetto, e a quanto pare hanno accettato le nostre modifiche, e quindi stanno ancora modificando un po' il progetto ancora in finire. Comunque il succo fondamentale è che adesso con un magheggio, con una magia, avrebbe reso una sorta di contributo agli studenti che facevano un tirocinio curricolare. Il problema è che anche lì si presentano delle falle, in quanto non è la regione direttamente mette nelle mani i soldi allo studente, ma è l'azienda che a sua discrezione chiede un contributo di rientro spese. propagare il tirocinante. Questo contributo speso è al netto di 300 euro, quindi sarebbe 500, ma con le tasse arriva a 300 euro, per un massimo di 6 mesi di filo di tirocinio, e sfocchiare soltanto una volta tutto il tirocinio, non più di una volta. Siamo ritornati a uno specchietto per l'allodolo, perché appunto intanto ci sono tirocini che durano più di 6 mesi, e poi ci sta anche che uno non faccia più di un tirocinio, abbia più lunghi, quindi rischia di fare soltanto una volta, quindi rischia di essere una tantum questo contributo. E poi la cosa più debole è proprio il fatto che l'azienda si decide se attivare questo tipo di contributo oppure no, quindi non è lo studente che si attiva, è una cosa che è delegata all'azienda. In quanto riguarda le ASL, l'istituto sanitario, la regione ci ha assicurato che dal momento in cui partiva l'iscrizione alla facoltà questo contributo era naturale, non c'era da fare niente, sarebbe stato assicurato. Discorso diverso per le strutture private. È chiaro che se tra l'altro i tirocinanti di infermeristica, così come le altre professioni sanitarie, fanno tirocini anche nelle strutture private, in questo caso la regione non ha nessuna capacità di imporre al Stato di chiedere questo tipo di tirocino. Per quanto riguarda la facoltà infermeristica, che anche lì è di nuovo il centro di infermeristica a muoversi per primi su questo fronte, è che la retribuzione sarebbe stata ridotta rispetto al precedente, la precedente forma di retribuzione che era l'assegno infermeristico, e come ti dicevo prima, ci sono tirocini che durano più di 6 mesi, e quindi se ci passo ormai a analizzarlo e dire la verità su questo progetto, che per noi è un soprattutto per le allodole e non è assolutamente sufficiente rispetto alla problematica di tutti gli studenti di Ateneo Fiorentino, ma come gli altri studenti. È sicuramente un passo avanti rispetto a nulla, però è ancora insufficiente per noi. Certo, va bene Francesco, se vuoi aggiungere altro ovviamente i microfoni sono aperti, se no ti chiederei comunque magari di lasciare qualche riferimento per il lavoro che state facendo, insomma, per chi volesse seguirlo e approfondire quanto ci hai raccontato. Sì, assolutamente. Allora, per partecipare alla campagna, guardare, scaricare il documento, firmare la petizione e svolgere un questionario, cioè quel questionario su cui vogliamo fare strumenti analisi per toccare con mano la problematica del tirocinio e avere anche appunto strumenti per capire bene la realtà in cui ci muoviamo, in quanto sfaccettata, in quanto complessa. Quindi direi di andare a fare il nostro blog, che è tirocinoanchino.noblogs.org, scaricare il questionario, scaricare il nostro documento e aggiornarsi sulle nostre future iniziative. Va bene, allora Francesco, ti ringraziamo ancora, buon lavoro per tutto, a risentirci presto anche su questi microfoni. Grazie anche a voi, buon lavoro, buona giornata. Un saluto, ciao, ciao, ciao. Ciao. Unchain my heart. Spell. I'm under your spell. Like a man in a trance. Bene, siamo in collegamento con Gigi di Obo da Bologna e, come detto nell'introduzione, andiamo un po' a parlare di questa pagina Facebook Spotted Professori Unibo, che è nata da pochissimo ma già molto diffusa. Siamo già a quasi 800 mi piace a pochi giorni dalla sua nascita. Però diciamo questa pagina non nasce solo per diletto, non è l'ennesima pagina su Facebook, ma ha diciamo un seppur breve percorso che ha seguito. Nasce un po' da appunto questa vicenda di questo professore ordinario Pane Bianco di Bologna, che ha scritto questo editoriale sul Corriere della Sera in cui dava le sue indicazioni sulla gestione più economicamente virtuosa dei flussi migratori, quindi diciamo una messa a valore becera della voglia di muoversi delle persone o della necessità di andare di muoversi da zone di conflitto dove non ci sono possibilità, che il nostro caro Pane Bianco ha trovato buono mettere a profitto anche questa esigenza. Bene, ovviamente i compagni e le compagne di Bologna non si sono fatti sfuggire la problematicità di un intervento del genere, e soprattutto che un professore dall'alto della sua posizione di presunta oggettività del sapere veicoli questo tipo di idee. Quindi si è data una contestazione a cui poi è seguita un'assemblea, ma qui lascerei la parola a Gigi per darci due parole appunto su quest'antefatto che precede la nascita di questa pagina. Gigi, ci senti? Sì, vi sento, ciao a tutte e a tutti. Sì, come dicevi tu, la pagina di Spotted Professor Unibo nasce innanzitutto dalla contestazione a Pane Bianco, editorialista del Corriere della Sera, e proprio sul giornale di Via Solferino aveva scritto lunedì 13 gennaio un articolo che, insomma, per farla breve potremmo definire una teoria della selezione razziale nel mercato del lavoro. Noi immediatamente abbiamo scritto un comunicato, successivamente il giorno dopo, il 14 di gennaio, abbiamo fatto una contestazione a Pane Bianco, non solo incentrata su un classico discorso antirazzista, ma innanzitutto collegando quella teoria della razza ai processi di sfruttamento del lavoro vivo. E la contestazione ha avuto una grande eco, una contestazione che ha portato anche a scaricare della vernice sulla porta del professor Pane Bianco e dell'editorialista Il Corriere della Sera Pane Bianco, della vernice rossa come quel sangue dei migranti, dei lavoratori sfruttati, dei precari che quotidianamente, insomma, subiscono le conseguenze di ciò che i vari Pane Bianco scrivono sui quotidiani della grande borghesia e che professano ex cattedra nelle lezioni universitarie. Immediatamente Pane Bianco, così come la comunità accademica, termine su cui poi ritornerò, si sono trincerati dietro una supposta libertà di opinione, cosa abbastanza grottesca detta da chi quotidianamente ha a propria disposizione i grandi mezzi dell'informazione, le accademie, le lezioni, eccetera eccetera. Noi invece abbiamo ribadito che non concediamo nessuna libertà di opinione a chi si fa portatore di retoriche e dunque di politiche razziste e di sfruttamento. C'è stata, come già tu ricordavi, la settimana successiva, martedì 21 gennaio, un incontro assembleare particolarmente partecipato, sempre Scienze Politiche. Sì, ecco, ti volevo chiedere un po' di questa assemblea perché è molto interessante il passaggio in cui poi si è andata a costituire questa pagina, perché sembrerebbe che finalmente si sia stati in grado di dotarsi di uno strumento per un po' catalizzare e quindi anche valorizzare in un'eventuale organizzazione al riguardo tutte quelle lamentele da corridoio su le angherie che tutti gli studenti e le studentesse che attraversano qualunque università conoscono, dal professore che si rende irreperibile a quello che ti costringe a comprare i suoi libri piuttosto che i libri dell'amico ipercostosi, appunto attese interminabili per avere un placet su una tesi qualunque di triennale che poi nel momento in cui si va a discutere magari il progetto nel dettaglio si rivela anche inadeguata secondo colui che aveva sponsorizzato il progetto fino a quel momento. Insomma, disagi della vita vita quotidiana di studenti e studentesse che poi da una parte appunto rendono peggiore la nostra vita perché è frustrante, dall'altra poi da un punto di vista anche di come influiscono materialmente sulle nostre condizioni, più stiamo diciamo provocano dei rallentamenti effettivi. Il rallentamento effettivo all'università vuol dire pagare di più, diciamo, sembrerebbe che ci sia proprio una volontà quasi di appunto che non ci si ponga minimamente il problema del fatto che ci sia la vita di qualcuno dietro a quel numero di matricola. E quindi certo. troviamo molto interessante questa pagina, e sembrerebbe appunto da come è animata che l'intuizione sia stata veramente azzeccata. E quindi appunto volevamo chiederti un po' di questa assemblea che ha finalmente espresso a gran voce un'esigenza latente in tutte le università da anni. Certo, ma appunto sì, l'assemblea è stata molto partecipata, circa un centinaio di persone, studenti e un po' di precari, e da notare da questo punto di vista, a parte qualcuno dei docenti preoccupati, la quasi totale assenza dei docenti, anche dei docenti insomma storicamente critici, che nelle proprie lezioni esprimono dei punti di vista critici rispetto alla questione, che indica come veramente ci sia stata una reazione che potremmo definire castale da parte della comunità accademica. In questa assemblea è stata ribadita e rilanciata la pratica delle scrace, termine che riprendiamo dalla nota pratica argentina di andare sotto le case dei responsabili della dittatura militare, pratica che poi è stata ripresa ad esempio in Spagna contro i responsabili della crisi, o negli Stati Uniti proprio nei campus americani, proprio per contestare quei docenti che propugnano ideologie retoriche neoliberali. Il giorno successivo è stata aperta la pagina. È molto interessanti, come dicevi tu, sia la diffusione, il numero diciamo così di like, per quanto possa essere una qualche tipo di unità di misura, ma soprattutto i commenti che già sono arrivati, insomma le segnalazioni di docenti che, come dicevi tu, non insomma mancano ai ricevimenti, che agli esami si comportano in maniera particolarmente odiosa ed arrogante, che appunto non insomma in qualche modo fanno subire agli studenti e ai precari delle quotidiane angherie, che esercitano e abusano dei propri rapporti di potere, eccetera eccetera. È molto interessante anche vedere come in realtà, ecco, facendo un rapido, così andando a vedere un po' anche dei campioni casuali di chi ha indicato la propria preferenza alla pagina, anche di coloro che in qualche modo ne scrivono, che fanno delle segnalazioni, ecco, è molto interessante che si tratta di persone al di fuori delle cerchie di amicizie militanti. Poi si sa, insomma, che Facebook funziona un po' come una sorta di, diciamo così, di par virtuale, ecco, per cui più o meno poi le cerchie di amicizia sono sempre le stesse, mentre qua l'impressione è che davvero si arrivi a interloquire con un pezzo consistente di quella composizione che solitamente, a cui solitamente non arriviamo con i più consolidati lessici e linguaggi militanti. È anche interessante il fatto che le prime segnalazioni siano arrivate da parte di studenti di ingegneria, anche queste facoltà sono solitamente piuttosto ostiche per l'intervento politico, per l'intervento militante, che probabilmente indicano che lì c'è un livello di compressione che diciamo è inversamente proporzionale alle possibilità e alle promesse di mobilità sociale che invece sempre più si vanno restringendo. Assolutamente, infatti diciamo nel collegamento precedente portavamo un po' fuori anche proprio il dato di come siano per questione di tirocini piuttosto che diciamo progetti che hanno delle scadenze, dei materiali, insomma tutta un alveo in cui si muovono le facoltà scientifiche, che anche a Firenze sta comunque esprimendo qualcosa proprio alla luce, secondo noi, di quello che dicevi tu, ovvero appunto la promessa di possibilità che queste facoltà danno, poi fa sì che nel processo di formazione si debba essere disposti, in nome di questa stabilità della vita che poi arriverà, ad accettare qualunque condizione. Sì, perché poi spesso nelle facoltà scientifiche ci sono diciamo pezzi rilevanti di composizione proletaria che ancora insomma sperano quantomeno di poter utilizzare l'università come un canale di mobilità sociale ascendente. Da questo punto di vista le facoltà scientifiche hanno ancora un po' sono ancora percepite almeno in parte da questo punto di vista, una percezione che invece si scontra con una materialità che va nel senso opposto, che va nel senso del declassamento e dei processi di precarizzazione. Ecco, credo che la cosa più significativa di questa pagina è che davvero il tentativo è in qualche modo quello di superare alcuni limiti, alcuni punti di blocco che abbiamo incontrato negli ultimi anni a partire dall'onda, quando credo che collettivamente, usando un noi largo, abbiamo poco saputo fare i conti con diciamo così un sentimento diffuso che è stato immediatamente bollato come giustizialista meritocratico, un sentimento sicuramente profondamente ambivalente, direi anche ambiguo, contraddittorio, eccetera eccetera, che abbiamo affrontato dal punto di vista teorico, però spesso risolvendolo in modo troppo semplicistico, cioè pensando che la meritocrazia o il discorso sui corrotti sia una semplice mistificazione di quelli che sono i rapporti di sfruttamento e di precarizzazione. Un discorso che evidentemente ha delle ragioni dal punto di vista teorico, che proprio nella materialità va evidentemente tradotto e declinato. Credo che questo passaggio fino a questo momento ci sia in larga parte mancato. Ora, il tentativo di questa pagina è esattamente quello di entrare in interlocuzione con come dicevi tu, con quelle forme diciamo così di malcontento, di parziale resistenza individuale, di rifiuto diffuso, che assumono le caratteristiche più svariate, e quelle diciamo quell'interlocuzione provare a trasformarla in uno spazio di politicizzazione, ossia per veramente lottare contro la corruzione sistemica bisogna evidentemente passare anche per la lotta contro i singoli corrotti. Ma ecco, infatti molto interessante, ci piaceva questa definizione che abbiamo trovato proprio sulla pagina stessa di microfisica del potere universitario. Sì. Perché comunque ci sembra che sia un passaggio molto importante quello che questa pagina fa, che è un po' ovviamente con tutti i limiti dei rapporti di forza esistenti, però un attenzionare i professori, il corpo docente, come del resto il corpo docente non si risparmia di attenzionare gli studenti, quindi un rivendicare la possibilità di dire la propria prima di tutto sulla al pari, diciamo, come persone su un piano al pari dei professori, ma soprattutto in maniera sostanziale sulla gestione poi dell'università. Certo. Ma io credo che questo sia un aspetto assolutamente centrale, perché insomma io credo che le reazioni che ci sono state, le reazioni appunto scandalizzate da parte dei media, sì, ricordiamo che poco ministri, dopo che la pagina è stata aperta, subito Repubblica si è spesa nel parlarne. Questo infatti liste di proscrizioni, blacklist, poi vabbè, il solito armamentario retorico, i fascisti rossi, eccetera, sì, eccetera, sì, eccetera. Riconosciamo. Non vale nemmeno la pena spendere ulteriori parole. Immediatamente, su segnalazione della Digos, la Procura ha aperto un fascicolo per valutare la possibilità di chiudere la pagina. Addirittura, oltre che le istituzioni locali, quindi l'amministrazione universitaria e l'amministrazione comunale, anche il Ministero dell'Istruzione è subito intervenuto in modo scandalizzato, chiedendo la chiusura della pagina, eccetera. Ecco, io credo che queste reazioni denotino una effettiva paura, una paura che ovviamente va ben al di là delle possibilità che la pagina può avere, certo, ma diciamo la paura che questa di questa pagina come un sintomo di un qualche cosa che si può fare. Infatti, come ben ricordavi tu, diciamo uno scarto un po' sostanziale rispetto a quelle che sono state le lotte anche di Mansa che si sono date in università, è proprio questo individuare nel professore comunque, certo, un portatore di nemicità, cioè un avversario che non parla dal nostro stesso punto di vista e che soprattutto anche quando simpatizza poi di fatto non mette mai in discussione la propria posizione privilegiata, e questo, certo, è un qualcosa che comunque durante l'onda non avevamo visto. Che questo sia esattamente l'aspetto, nel senso che il problema è davvero spaccare finalmente la comunità accademica, cioè spaccare questa mistificazione del siamo tutti sulla stessa barca, che secondo me, è stato un po' uno dei limiti dei movimenti universitari degli ultimi anni. Penso ad esempio all'Onda nel 2008, in cui lo scontro sembrava tra la comunità accademica e il governo, mentre no, non esiste nessuna barca comune, perché su quella barca c'è chi comanda e chi rema, e quindi ecco, il problema è davvero territorializzare lo scontro di classe dentro l'università, individuare con precisione quella che è la controparte e anche dare dei nomi e dei cognomi ai nemici. Ecco, io credo che questo sia il problema, e ecco, è la fine una sorta di rischio della fine dell'impunità, credo che sia quello che più terrorizza i docenti, quello che più scandalizza evidentemente i media. Credo anche che sia molto interessante, peraltro abbastanza scontata, la reazione, diciamo così, di un'opinione pubblica diffusa di sinistra all'apertura di questa pagina, anche questa che è riscontrabile in quei dibattiti, quelle pillole di dibattito che ci sono sui social network e su Facebook. C'è stata una reazione scandalizzata: ma come? Voi vi ponete sullo stesso piano dell'ANVUR, anche voi assumete il criterio della valutazione, eccetera, eccetera. Ebbene, io credo che insomma, è da tempo, no, che c'è questo dibattito attorno alla valutazione. Da una parte, no, le retoriche neoliberali sulla necessità di valutare come strumento di gerarchizzazione e di selezione, e dall'altra parte, ad esempio in Italia, la chiusura a riccio del corpo accademico: nessuno può giudicare la magistratura intellettuale del paese. Ecco, evidentemente una parte anche, no, dicevo prima, all'interno dei movimenti, una parte dei precari e degli studenti ha teso negli ultimi anni a prendere le parti dei docenti, contro la valutazione. Ecco, secondo me noi dobbiamo avere la capacità di combattere entrambe queste posizioni, perché entrambe queste posizioni sono a noi nemiche. Cioè, la valutazione è evidentemente strumento di potere, e nella misura in cui è strumento di potere noi ci dobbiamo appropriare collettivamente dell'esercizio di quel potere. Il problema non è valutare o non valutare, ma il problema è chi valuta. Ecco, questa iniziative di questo tipo e altre che ne possono sorgere cercano in qualche modo di alludere, senza ovviamente quei rapporti di forza, come dicevi tu, sono quelli che sono, però la strada credo che sia quella davvero di appropriarci della, no, dello strumento della valutazione ed esercitare collettivamente rapporti di potere, anche perché per molti studenti dire no alla valutazione significa in qualche modo schierarsi dalla parte degli odiati baroni. Dire no alla valutazione per molti studenti, per molti studenti significa negazione della possibilità di prendere a calci nel culo i baroni. Ecco, noi invece dobbiamo organizzare, ecco, il fatto di prendere a calci nel culo i baroni. Ecco, credo che sia un po' questa il rovesciamento che dobbiamo fare negli ultimi anni. Cioè, abbiamo spesso avuto la puzza sotto il naso, no, rispetto a dei sentimenti che noi in senso lato sono stati definiti appunto giustizialisti, grillini, eccetera, eccetera, eccetera. Ora è chiaro che lì dentro c'è tanta ambiguità, c'è tante contraddizioni, c'è anche tanta merda, ecco, per usare termini estremamente chiari, però credo che noi dobbiamo avere la capacità di trasformare, di sciogliere quelle ambivalenze in un senso non di appunto di non, in un senso non giustizialista, ma in un senso in qualche modo di una lotta alla corruzione sistemica. Direi così, ecco, sottrarre la lotta alla corruzione dalla delega alla magistratura. Ecco, credo che questo sia un po' il problema che ci dobbiamo porre per davvero spaccare la comunità accademica, identificare un nemico ed agire dei rapporti di potere. Dico anche che tutto sommato, insomma, facendo paura ai baroni e ai docenti, diamo anche un grosso contributo alla produzione dei saperi, alla produzione scientifica, perché poi quando uno deve rendere conto di quello che dice, di quello che scrive, solitamente lo fa con più attenzione, lo fa meglio, per cui credo che anche da questo punto di vista sia estremamente utile. Va bene Gigi, grazie mille, assolutamente grazie, continuiamo a contribuire alla produzione scientifica riappropriandoci di pezzi di potere. Poi credo che sarebbe anche molto importante che anche esperienze simili si diffondessero davvero in tante università, in tante città, perché credo che, insomma, dobbiamo continuare a contribuire ad organizzare questa paura. Assolutamente, ma sicuramente ogni ateneo ha un po' la sua specificità, anche i suoi canali di comunicazione, sicuramente intercettare quelli attraverso cui appunto girano quella che abbiamo chiamato lamentela da corridoio, per organizzarle e tirarne fuori delle forme organizzative che poi si traducano in delle strategie di contrattacco, è un invito a cui ci uniamo sicuramente. Va bene Gigi, grazie mille, grazie a tutti e tutte di Obo, e continuiamo a rimanere sintonizzati su Spotted Professori Unibo e a mandare le nostre segnalazioni anche dall'Ateneo di Torino in caso si verificassero episodi particolarmente eclatanti. Condivideremo anche da qui. Grazie ciao mille a tutti, Gigi. A tutti, grazie. Ciao Gigi, ciao. Ciao. Prima di fare uno stacco musicale dopo questa diretta, andiamo a leggere due messaggi che sono arrivati appunto mentre eravamo in collegamento con Gigi. Credo siano collegati, perché il primo parlava di posti di blocco della polizia in Corso Vittorio, il secondo segnala che è in corso una grossa retata al Parco del Valentino con diversi posti di blocco, quindi appunto immagino si tratti della stessa cosa. Tra l'altro giusto questa mattina la stampa online di Torino titola in prima pagina: per la sicurezza del Valentino serve una task force, articolo a cura della Penna d'Oro di Massimo Numa, quindi insomma sembra appunto che proprio di questo si parli, insomma sconsigliamo il passaggio nei paraggi per chi fosse da quelle parti. Ecco, se qualcuno poi ha anche magari aggiornamenti, vede succedere qualcos'altro, non esitate a scriverci al numero di cellulare della radio 346-66-73-263. Allora un breve sacco musicale, poi proseguiamo con la seconda parte della puntata. Buon ascolto.

Bene, 12:12, Radio Blackout, siamo in collegamento con Michele di Degage da Roma. Ciao Michele. Michele, ci senti? Sì, vi sento, vi sento. Perfetto. Allora, siamo appunto in collegamento con Michele, che, a cui volevamo chiedere un po' uno sguardo dalla prospettiva romana, che cosa si muove già da ora in vista del vertice di primavera contro la disoccupazione giovanile. E sappiamo che a Roma il 9 febbraio alle 10 alla Sapienza si terrà uno dei primi appuntamenti di avvicinamento a questa data, che diciamo viene posta un po' come continuazione, con continuità rispetto al percorso che ha animato poi il 19, diciamo è confluito poi in piazza il 19 ottobre, e che dal 19 ottobre in poi a oggi abbiamo visto ha espresso molto sui territori, diciamo si è tornati ognuno sul proprio territorio con la capacità di esprimere, diciamo, nuove conflittualità e di riappropriarsi di nuovi pezzi di reddito e di diritto all'abitare. Ecco, questa, diciamo, seconda tappa della sollevazione generale un po' riprende gli stessi discorsi, ma un po' anche li amplia. E appunto, magari Michele ci parli un po' di questa assemblea del 9 febbraio? Niente, qua a Roma, insomma, dal 19 ottobre non ci siamo quasi più fermati, e appunto siamo arrivati ora che casca a fagiolo, diciamo, questo vertice che si terrà a Roma, ancora non sappiamo la data, fra i vari ministri del lavoro europei, insomma, sul tema dell'occupazione giovanile. Questo tema appunto parla in maniera forte di tutte le tematiche che abbiamo agitato in quest'autunno, di cui ci siamo resi protagonisti di lotte, di manifestazioni, e appunto ci sembra un po' a tutti un'occasione molto importante per cercare di parlare ancora una volta con quei soggetti sociali che si vivono la crisi, sia insomma dentro l'università, in quei luoghi dove appunto facciamo attività quotidianamente, sia nei quartieri e in questa città. L'assemblea appunto si inserisce all'interno di questo percorso che abbiamo intrapreso con varie realtà, che insomma sta dimostrando tutta la sua forza e tutta la sua capacità poi di, appunto, come dicevi tu, di ritornare nei territori. A Roma appunto anche in questi giorni si stanno muovendo numerose cose, numerose iniziative che insomma si legano molto poi a questa assemblea nazionale, alla prosecuzione delle lotte contro l'austerità e la precarietà. Ad esempio il 30 ci sarà al Porto Fluviale un'assemblea, diciamo, sul tema del diritto all'abitare. Appunto sappiamo come a Roma, dopo le lotte dell'autunno, dopo lo tsunami tour, dopo le mobilitazioni senza sosta che ci sono state contro gli sfratti, per le occupazioni e per il diritto all'abitare, si è raggiunta una delibera sul tema della casa a Roma, che appunto è in qualche modo il risultato di queste lotte, ma è un piccolo passo, è un qualcosa insomma da cui subito guardare oltre, e insomma si sta già rilanciando con questa assemblea del 30, che appunto tiene assolutamente in considerazione anche questa assemblea nazionale e questa mobilitazione sul vertice, e prova insomma sul tema della casa a mettere insieme i primi passi verso questa primavera di lotta, che appunto rivedrà protagonista a Roma anche la lotta per la casa, non solo appunto dei movimenti del diritto ad abitare, ma anche insomma degli studenti, che a Roma insomma ci sono vari studentati occupati e insomma però il bisogno di casa non è mai abbastanza, e quindi si continuerà a lottare anche su questo. E questo insomma è ad esempio una delle cose che da Roma si stanno iniziando a mettere in moto in relazione a questo percorso, in relazione alle tematiche poi della precarietà e dei bisogni che durante la crisi insomma si diventano sempre più forti e più diffusi, e appunto vogliamo ulteriormente rilanciare su questa tematica del diritto all'abitare. Allo stesso modo appunto pensiamo come Degace, come Sapienza Clandestina, poi che questo vertice ci dia un'occasione importante per dentro i luoghi, anche i luoghi universitari, per insomma rilanciare le lotte e la partecipazione alle mobilitazioni, perché appunto questa tematica dell'occupazione giovanile in un paese come l'Italia, dove sappiamo appunto ci diamo sempre queste cifre della disoccupazione giovanile pesantissime, e ci viviamo quotidianamente sulla nostra pelle poi la precarietà, il lavoro in nero, il continuo arrangiarsi per trovare un alloggio, per trovare un lavoro, e quindi pensiamo che poi questa tematica e questa mobilitazione possa in qualche modo raccogliere tutti quei soggetti che poi magari non trovano uno sbocco per le proprie insoddisfazioni, la propria rabbia anche dentro l'università. Invece pensiamo insomma che anche questa assemblea, diciamo, sia importante farla dentro un luogo universitario, perché appunto parla proprio di quel soggetto, e appunto speriamo che anche insomma nelle altre città, come da qui a Torino, riusciamo poi a far vivere questo percorso verso l'Assemblea Nazionale e verso soprattutto questo vertice anche appunto dentro l'università. Beh, certo, sicuramente l'università è un luogo privilegiato da cui affrontare la situazione, perché come tutti e tutte gli iscritti e non sanno ormai, e come anche abbiamo detto ed è uscito dai collegamenti precedenti, la promessa, diciamo, di ascensione sociale che l'università fa sempre più viene disattesa, e sempre di più tanti scelgono proprio di non farla, un po' appunto per i costi sempre maggiori dell'università stessa e della vita contemporaneamente, pensando di poter poi avere delle condizioni di vita migliori approcciandosi direttamente al mondo del lavoro. Ecco, come dicevi giustamente tu, questo assolutamente non è vero, quindi ci si ritrova a fare salti mortali da studenti e lavoratori, o solo lavoratori quali si è, quindi sicuramente da dentro l'università un punto di vista sulla disoccupazione giovanile, ma sul lavoro giovanile in generale, va costruito. Sì, sicuramente sì, appunto. Poi pensiamo appunto che dentro l'università questa tematica, se in qualche modo siamo riusciti in questi anni sul tema della casa e dell'abitare a rilanciare, no? A trovare anche delle soluzioni, dei piani anche conflittuali per intervenire su quella tematica là. Invece su quest'altra tematica del lavoro e poi di cosa rappresenta l'università oggi nella società, leggevo ieri su Repubblica un articolo che è uscito di come le università italiane hanno delle tasse altissime, la gente non si iscrive ormai più neanche soltanto per il pagamento delle tasse. Abbiamo visto settimane fa le mobilitazioni anche qua alla Sapienza contro il numero chiuso, contro insomma l'accesso all'università, che ormai è sempre più difficile, è sempre più elitario, appunto anche l'urgenza che abbiamo come realtà dentro questi luoghi di trovare appunto dei piani anche di lotta per iniziare a riprenderci qualcosa anche sulla tematica del lavoro e più in generale sul tema del reddito come giovani e come studenti. Okay. Poi insomma, dato che mi avete contattato, volevo anche raccontarvi rapidamente, insomma, a Roma si sta preparando anche una mobilitazione forte sulla tematica dei CIE e dei migranti. Assolutamente sì, ti avremmo fatto due domande anche al riguardo, appunto, infatti ti blocco, ti faccio la domanda così contestualizziamo un po' bene. In realtà appunto sappiamo che a Roma per il 15 si sta dando una giornata di mobilitazione verso il CIE di Ponte Galeria, e alla luce un po' di quello che è successo, che abbiamo visto accadere durante le vacanze di Natale, ovvero non livelli di condizioni diverse da quelle che abbiamo sempre conosciuto, ma ormai la questione dei CIE è così, è arrivata a un punto tale per cui persino Repubblica non si è potuta esimere dall'ignorare completamente quello che è un po' il grande assente dal discorso politico istituzionale. Quindi molto volentieri, se ci racconti un po' che cosa sta accadendo, qual è un po', quali sono state le tappe che hanno portato a decidere di dare una data di mobilitazione, e che cosa si ha in mente un po' per quella giornata. Diciamo che questa mobilitazione nasce, per quanto ci riguarda, insomma, molto anche all'interno di tutta questa mobilitazione nata a Roma dallo Tsunami Tour dal 19 ottobre, e all'interno insomma di anche un panorama più largo che vede poi appunto un attacco sia ai soggetti migranti che non dentro questa società. E in particolare a Roma il CIE di Ponte Galeria, insomma, è anche un po' un simbolo di queste politiche sui migranti, e abbiamo visto appunto, come dicevi tu, sotto Natale e anche l'altro ieri riprendere delle proteste forti dentro il CIE, con i migranti che si sono cuciti la bocca, con i migranti che hanno deciso di dormire all'aperto con i materassi fuori. Insomma, poi il CIE di Ponte Galeria è particolarmente infame perché è completamente isolato, fuori città, e sta dentro insomma la centrale del reparto celere della polizia, cioè commissariati dentro, cose, insomma è molto tenuto fuori insomma dalla vita delle persone, ed è pure difficile percepirlo, mentre queste proteste hanno riportato in maniera prepotente anche sulle prime pagine dei giornali le condizioni che si subiscono queste persone quando vengono recluse dentro questi centri soltanto per non avere i documenti per stare sul suolo italiano. Quindi diciamo che da un lato, come sempre poi su questa tematica, ci tengo a sottolineare, la spinta viene dai migranti stessi in maniera anche molto spontanea. Da un'altra appunto questo movimento meticcio che a Roma appunto è sceso in piazza molto frequentemente quest'autunno e su varie tematiche è appunto fortemente composto dai migranti, che sia nella lotta per la casa che anche nelle lotte per la logistica, come stiamo vedendo questi giorni ad esempio davanti alla Granarolo. Il protagonismo nelle lotte poi dei migranti è insomma sorprendente e incoraggiante, e quindi diciamo tutti questi insieme di spinte ci hanno portato a immaginare come si potesse a Roma, partendo dai movimenti, partendo dal basso, partendo dalle lotte reali che coinvolgono poi questi soggetti, a andare a chiedere in maniera, andare a imporre in maniera forte la chiusura di questo centro. Questo percorso diciamo vedrà un'assemblea pubblica il 5 al Cinema Palazzo alle 5 del pomeriggio, e appunto il 15 febbraio questo corteo che vuole arrivare sotto questo centro infame che sta a Ponte Galeria. E insomma questo è un po' diciamo lo scenario attorno al quale insomma per chi è interessato al tema possiamo vedere che in questi giorni si stanno sprecando insomma da associazioni a giornali a partiti politici a realtà di movimento insomma a prendere tutti parola su questo tema, chi sui CIE, chi sull'accoglienza, chi su questi fondi, sull'accoglienza che dovrebbe arrivare, insomma quindi una tematica anche molto complessa e molto anche scivolosa, all'interno del quale anche la sinistra sta cercando di ripulirsi la faccia o di cercare una soluzione appunto in uno scenario molto complesso in cui appunto noi stiamo provando a dare questa spinta, diciamo, in qualche modo per la chiusura del CIE per ora. Sì, certo, insomma, ci ricordiamo tutti, insomma, le tante belle parole, i bei gesti del PD, non solo a ridosso di Natale, che poi, insomma, hanno lasciato il posto a nulla di fatto. Quindi, come dicevi tu, è importante appunto che queste lotte prendano parola dal basso, con l'augurio appunto che la solidarietà possa estendersi anche al resto d'Italia, ma così in parte già stato, insomma, con l'estendersi delle proteste anche in altri CIE, anche qua a Torino, dove appunto l'eco della protesta di Ponte Galeria è stato subito raccolto, quindi insomma, lavoro da fare tanto, però sicuramente questi primi segnali sono incoraggianti. Noi insomma ti ringraziamo, rilanciamo appunto quindi sia questo appuntamento sia quello del 9 febbraio per l'assemblea alla Sapienza in vista della mobilitazione contro il vertice europeo. Avremo sicuramente modo di riaggiornarci nelle prossime settimane con appunto nuove notizie, nuovi appuntamenti. Nel frattempo appunto ti ringraziamo ancora e ci risentiamo presto. Ciao a tutti e tutte. Ciao Michele, grazie. E nel frattempo abbiamo fatto le 12:26, quindi vi lasciamo ancora un po' di musica prima di salutarci. Okay. su segnalazione di un ascoltatore facciamo una piccola correzione: la cena di questa sera all'asilo di Via Alessandria non sarà benefit per il movimento di lotta per la casa, ma sarà benefit per i quattro compagni in Ottav tuttora in carcere dal 9 di dicembre, quindi insomma l'invito come sempre a partecipare numerosi dalle 20:30. Jimmy Jazz, yeah, they say, shot to Mascagna, for Jimmy Dread, cut off his ears and chop off his head, police come look for Jimmy Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, so they're gonna take the message across the town, maybe put it down somewhere. Ancora un appuntamento in chiusura alla biblioteca autogestita del terzo piano di Palazzo Nuovo, prosegue il ciclo di Cineforum sul tema della distopia. Questo giovedì verrà proiettato Dark City, l'appuntamento è dalle 21 appunto a Palazzo Nuovo al piano meno 2, insomma vicino all'ex Celid. Il ciclo continuerà poi per altre due settimane, in particolare il 6 febbraio verrà proiettato Strange Days, infine il 13 chiuderemo la rassegna con La città perduta. Trovate anche l'evento su Facebook con maggiori informazioni. Allora, intanto facciamo una segnalazione: vigili effettuano controlli in corso Principe Eugenio, quindi cisti. alle 12.37, allora noi ci prepariamo per i saluti, tra pochi minuti andrà in onda il GR di Blackout. Noi ci risentiremo come sempre martedì prossimo dalle 10.45. Flessibili fino alle 12. E Eddie che vi lascia con questo bellissimo sole.